Canto undicesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto undicesimo. O Padre nostro, che nei cieli stai, non circoscritto, ma per più amore che ai primi affetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura, come degno di render grazia al tuo dolce vapore. Vegni a ver noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, s'ella non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando osanna, così facciano gli uomini de suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto a retrovà chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona benigno e non guardare al nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona non spermentar con l'antico avversaro, ma libera da lui che si la sprona. Quest'ultima preghiera, signor caro, già non si fa per noi, che non bisogna, ma per color chi dietro a noi restaro. Così a sé e noi, buona ramogna, quell'ombre orando andavan sottopondo, simile a quel che talvolta si sogna, disparmente angosciate tutte a tondo, e lasse su per la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice, di qua che dire e far per lor si puote, da quei ch'hanno al voler buona radice? Ben si de loro aitar lavar le note, che portar quinci, sì che mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. De se giustizia e pietà vi disgrevi tosto, sì che possiate muover l'ala, che secondo il disio vostro vi levi, mostrate da qual mano inver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco, quel ne insegnate che menerto cala, che questi, che vien meco, per non carco della carne d'Adamo onde si veste, al montar su contra sua voglia è parco. E lor parole, che rendero a queste, che dette avea colui cui io seguiva, non fur d'alcun venisser manifeste, ma fu detto, a man destra per la riva con noi venite e troverete il passo possibile a salir persona viva. E s'io non fossi impedito dal sasso, che la cervice mia, superba doma, onde portar conviemmi il viso basso, cotesti che ancor vive e non si noma, guarderei io per veder s'io il conosco e per farlo pietoso a questa soma. Io fui latino e nato d'un gran tosco, Guglielmo Aldobrandeschi fu mio padre. Non so se il nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opere leggiadre dei miei maggior mi fer sì arrogante che non pensando alla comune madre ogni uomo ebbe in dispetto tanto avante ch'io ne morì come i sanesi sanno e sallo incapagnatico ogni fante. Io sono Omberto e non pure a me danno superbia fe che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien che io questo peso porti per lei tanto che a Dio si soddisfaccia, poi chi non fe tra i vivi qui tra morti, ascoltando chinai in giù la faccia. Ed un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che lo impaccia, e videmi e conobbemi, e chiamava tenendo gli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava. Oh, dissi io lui, non se tu o derisi l'onor da gobbio e l'onor di quell'arte che alluminare chiamata in Parisi? Frate, diss'egli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese. L'onore è tutto or suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi, per lo gran disio dell'eccellenza ove mio core intese, di tal superbia qui si paga il fio. Ed ancor non sarei qui se non fosse che possendo peccar mi volsi a Dio. Oh vana gloria dell'umane posse! Con poco verde sulla cima dura, se non è giunta dall'etadi grosse. Credette Cimabue nella pintura tener lo campo, ed ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui oscura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan romore altro con fiato di vento, ch'or viene quinci ed or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Che fama avrai tu più, se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto innanzi, che lasciassi il pappo e il dindi, pria che passi 1000 anni? Che è più corto spazio all'eterno, con muover di ciglia, al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui che del cammin si poco piglia dinanzi a te, Toscana sonò tutta, ed ora appena in Siena s'empispiglia, ond'era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu a quel tempo, sì, com'ora è putta. La vostra nominanza è color d'erba, che viene e va, e quella discolora, per cui l'esce della terra acerba, ed io a lui. Lo tuo ver dir m'incuora buona umiltà, e gran tumor m'appiani, ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quegli è, rispose, Provenzan Salvani, ed è qui, perché fu presuntuoso a recar Siena tutta le sue mani. Ito è così, e va senza riposo, poi che morì. Cotal moneta rende a soddisfar chi è di là tropposo. Ed io, se quello spirito, ch'attende pria che si penta l'orlo della vita, laggiù dimora e quassù non ascende, se buona razion lui non aita, prima che passi tempo, quanto visse, come fu la venuta a lui largita? Quando vivea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena, ogni vergogna deposta, s'affisse, e lì, per trar l'amico suo di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò, e scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Quest'opera li tolse quei confini. Fine del canto undicesimo.